ma senza ridere. E ora tu, chissà dove sei. Avrai trovato amore, o come me, cerchi soltanto di avventure. Cambia tutto, lo sai, e cambiamo anche noi, cambiamo anche noi.